Ponte Radio. Radio. Buona giornata, benvenuti e benvenute a questa nuova puntata di Ponte Radio. Quest'oggi Ponte Radio trasmette direttamente da Radio Blackout. Per chi non conoscesse ancora questo programma, si tratta di un programma condiviso, redazionale, quindi informativo e di approfondimento, condiviso tra 7 radio indipendenti d'Italia, un programma che a cui abbiamo scelto di partecipare, che come Radio Blackout da qualche settimana attraversa le nostre frequenze come rilancio di puntate create da altre radio. E per chi non ci ascolta da Torino, benvenuti e benvenute sulle libere frequenze di Blackout. Vi lasciamo innanzitutto i contatti, perché così anche da fuori città potete scriverci. Per chi appunto è in città, già i numeri di telefono speriamo li conosciate: 346 66 73 263. Il numero di cellulare per poter scrivere dei messaggini su qualsiasi piattaforma di messaggistica istantanea. Siate benvenuti e benvenute a collaborare a questa puntata di Ponte Radio. 011 249 5669, il numero di telefono fisso qui di Radio Blackout. Ci potete ascoltare sui 105-250 FM se siete a Torino, ma quest'oggi appunto in giro per l'Italia in tante radio differenti. E buongiorno anche a chi collabora con me ai microfoni. Buongiorno, e così iniziamo questa puntata, così un po' emozione di essere così, su così tante radio. In diretta quasi nazionale, cioè, mamma mia. Mamma mia, e niente, quindi partiamo con un attimo di musica, sì. introduciamo la velocemente la puntata, perché ci ascoltasse, non facciamo ancora lo spoiler dei contenuti, ma la tematica di oggi sarà, e di tutto il mese in realtà, è stato tutto il mese di febbraio, sono la montagna e i grandi eventi, le grandi opere, con un focus sulle Olimpiadi. Quest'oggi la diretta di Radio Blackout sarà piena di personaggi e speaker e interventi. Partiamo con un po' di musica e appunto scriveteci se avete dei contributi da dare, e questa è Lella Fada, Tarat. ما ينفعش اكون قاعده براحتي لو ضربني فعشان مصلحتي لو ضربني موعدي مع صاحبي لو ضربني عشان ما بلاش نتكلم غير في الماضي لو حلوه فمخي ده اكيد فاضي ما غنيش غير لو بصوت واطي ما غنيش غير لازم اقلب فراشه لو بوز لازم اسمع كلام بيموت ما فكرش غير في اني اتجوز ما فكرش غير باخد اذن على لبسي بصوره باخد مو من عيني نافورة أنا مجرد ته مربوطة أنا مجرد بتفكر تمالك فاكر نفسك في السليم والأمان مش حاسة بيه وانت مالك عارف بتفكرني بين انت بتفكرني بيه بتفكرني عاوز ان اطلب حاجة تقول نسيت متاحة ليك اكون بوفيه واربي عيال واكون ديكور في بيت عالمطبخ يلا عشان اكون بزن لو كنت باكد استحمل واسكت ابقى رخمة وبقفل اطلع اللي فيا ابقى بنات كده اقول لا ابقى ما بفهمش غير لو تشرح لي ما بختارش غير لو تسمح لي ما بنفعش لو ماما مش بترتاح لي كفا عادي اكون ماليش دار غير بيك عادي اعيش معاك ما ثقش فيك تخلني تقول لي ده ما يعبكيش لو خنتك انا بقى بتفكر تمالك فاكر نفسك في السليم ولا الأمان مش حسابي وانت مالك عارف بتفكرني بيه انت بتفكرني بيه انت بتفكرني بكل مرة كنت اطلع من الحفرة وتسقيني كل ذنبي اني ما عملتش بالظبط زي ما قلتلي كل مرة خزلتني ولا مرة فهمتني انت مالك انت مالك بتفكرني كل مرة كنت اطلع من الحفرة وتزقيني كل ذنبي اني ما عملتش بالظبط زي ما قلتلي كل مرة خزلتني ولا مرة فهمتني انت مالك انت مالك giusto per darci un po' una ripresa dopo la pausa pranzo magari della insomma la digestione così da dici così canzone digestiva dai. E appunto ricordiamo per chi ci ascolta da fuori Torino che questa è Radio Blackout, siamo in diretta con Ponte Radio, trasmissione che emette in contemporanea su 7 radio indipendenti italiane, quindi facciamo finta abbiamo una trasmissione nazionale. Eh sì, tipo ecco. Emozionate. Molto, molto, molto emozionate. E, oggi parleremo appunto di Olimpiadi, grandi eventi di montagna, in particolare cercheremo di concentrarci sul nostro territorio, anche per chi non conosce magari le realtà di questa zona del Torinese, del Piemonte. Noi abbiamo dedicato spazio sia a quello che è stato lo storico dell'eredità che gli Olimpiadi delle Olimpiadi che ci sono state qua nel 2006 e che ci portiamo purtroppo ancora dietro. Ebbene sì, un territorio che sa qualcosa di Olimpiadi e dei segni che lasciano, purtroppo fino ad ora indelebili, in montagna, in città, diciamo in tutto il nostro territorio, è sicuramente quello torinese. Avremo anche un po' dei passaggi, credo, anche su quello che sarà e gli altri territori che saranno un po' toccati da queste nuove Olimpiadi che arrivano, quindi siamo anche nell'attualità, non solo in quello che è rimasto, ma in quello che arriverà. Sì, parleremo anche di attualità perché ovviamente l'incrociarsi di un evento olimpico così vicino ha posto una serie di questioni rispetto alle opere che sono rimaste qua come dei giganteschi dinosauri a invadere le valli delle nostre zone. Parleremo delle opere che sono rimaste, di quello che cercheranno di farne e vi assicuriamo che la fantasia non manca negli amministratori locali. Che insomma cercano di rinnovare delle opere ormai desuete, cadute in rovina, non utilizzate per decenni. E parleremo anche, appunto, come dicevi tu prima, della presenza di questi eventi anche nelle città, di come le città, la nostra, per esempio Torino, è stata attraversata dalle Olimpiadi e di come poi insomma, sono rimaste solo macerie in qualche modo. E poi insomma speriamo appunto che qualcuna anche da fuori Torino ci possa mandare dei messaggi. Quindi prima di fare una pausa musicale un po' più lunga e di poi affrontare la prima diretta di quest'oggi, vi ricordiamo ancora i contatti per poterci scrivere. Forse oggi, per chi ci ascolta da Torino, li diremo un po' più sovente del solito, ma abbiate pazienza, abbiamo degli ascoltatori e delle ascoltatrici da fuori e vorremmo interagire anche con loro, quindi 346-6673-263 il numero di telefono per tutta la messaggistica, mentre vai. Invece lo 011 2495 669 per interventi in diretta e poi. Siamo ancora old school, abbiamo ancora un telefono fisso. Vi ricordiamo anche, per chi ascolta da Torino, ma anche per chi ascolta da fuori, che questa sera Radio Blackout parteciperà a un Cadenasso, che è una cosa molto simile a quella che stiamo facendo adesso, una collaborazione tra varie radio organizzato da Radio Zarzamora, una radio cilena. Stasera alle 8:30 ci sarà la diretta su Radio Blackout. Per chi volesse ascoltarla intera, si può sintonizzare sul sito di Radio Zarzamora dalle ore 16, quindi poco dopo che noi metteremo giù i microfoni, Cadenazzo che si occuperà di estrattivismo. Eh sì, un tema che comunque si riconnette anche alla puntata di oggi. Mi Siamo sembra che tutto comunque sul pezzo. si annodi. E adesso vi lascio in compagnia di questo gruppo vasco. No, scusate, occitano, gruppo occitano francese, si chiamano Cocagna, sono un gruppo che fa canzoni a cappella in occitano. Prego. Moro Dei Lukins, che per chi non li conoscesse, chi non è di queste zone, sempre di musica occitana si tratta, anche se molto diversa dalla selezione di prima. E partiamo appunto, come dicevamo, con la diretta di questo Ponte Radio dedicata a grandi eventi e montagna. Partiamo con un po' uno storico di quello che è stato l'eventificio delle Olimpiadi qui nelle nostre valli, in particolare era appunto quello che era stato le Olimpiadi di Torino 2006. Vogliamo parlare un po' con un compagno che era presente sia nel momento delle Olimpiadi che poi in quello che è stata l'eredità delle suddette. E quindi dovremmo avere in diretta con noi al telefono un compagno dalle valli. Ciao, ci senti? Sì, sì, ciao a tutte, ciao a tutti. Ecco, appunto, noi qua da Microfoni di Blackout e del Ponte Radio volevamo appunto chiedere a te di aiutarci, accompagnarci un attimo anche per tutte le persone, non solo che magari non hanno la memoria storica perché troppo giovani, ma anche che non sono del torinese, per raccontare un po' quello che è stato l'attraversamento dell'evento olimpico qua da noi. Sì, allora, beh, innanzitutto fare, diciamo, una carrellata storica riguardante tutti i momenti e le situazioni di opposizione, di critica ai Giochi Olimpici di Torino 2006, vuole dire comunque toccare un arco di tempo piuttosto ampio, che parte, diciamo, da quando nel 97, quindi 1997, dopo i mondiali di sci al Sestriere, viene lanciata la candidatura olimpica per Torino e per le cosiddette valli olimpiche per i successivi giochi invernali, e arrivare, a, come dicevi tu, anche al dopo delle Olimpiadi. Io innanzitutto ci tengo a premettere che per vari motivi ho partecipato principalmente a quello che è stata, diciamo, la mobilitazione nelle vallate, per una, diciamo, pertinenza territoriale mia, e ad alcuni eventi, diciamo, alcuni momenti particolarmente significativi che si sono dati sulla città di Torino. Quindi, e anche per motivi, diciamo, indipendenti dalla mia volontà, la prima fase io non ero presente, quindi non posso se non raccontare quello che mi è stato trasmesso durante quei momenti insieme di lotta, diciamo, che però sono venuti quegli anni successivi. Comunque io direi che per tracciare, diciamo, la storia del percorso dell'opposizione alle Olimpiadi potremmo partire da quello che è stato un lavoro fondamentale, che è stato quello fatto dal Comitato No Olimpiadi. Un comitato spontaneo, non legato a partiti, a sponde istituzionali e così via, che fin appunto dal 97 ha iniziato a mettere in luce quelle che sarebbero state le criticità di questo grande evento. Criticità che, diciamo, in parte erano ben prevedibili per quanto riguarda quello che è accaduto in altre zone dove sono avvenuti eventi del genere, e nello specifico eventi come le Olimpiadi invernali. E anche portando, diciamo, queste critiche, quello che sarebbe stato poi il contesto in cui si sarebbe creato tutto, diciamo, l'evento da un punto di vista strutturale, da un punto di vista anche, diciamo, di narrazione mediatica e tutto quanto, nel contesto torinese e nel contesto specifico del grande predominio della famiglia Agnelli, che attraverso, diciamo, non solo la Fiat ma tutto quello che è il suo legame con lo sfruttamento turistico delle montagne, il Sestriere in particolare, che è la cosiddetta Via Lattea, che appunto è il grande comprensorio sciistico, che è di proprietà di ditte, aziende consociate e legate alla famiglia Agnelli. Quindi, diciamo, tutti questi elementi qua bisogna dire che il Comitato Non Olimpiadi li ha messi in chiaro fin dal primo momento e ha seguito tutti questi l'evolversi della situazione in maniera veramente precisa e dettagliatissima. Il lavoro che è stato fatto, oltre, diciamo, principalmente informativo, come dicevo, e poi infatti da questa mole di materiali, di articoli, di ricerche fatte, pubblicate sui loro siti e così via, e sono poi nate le due edizioni, cioè il libro, appunto il libro nero delle Olimpiadi di Torino, di Torino 2006, che appunto è stato pubblicato in due edizioni, la prima nel 2004 e la seconda proprio a ridosso del febbraio del 2006, quando poi si sarebbero tenuti i giochi. Tutto questo materiale informativo ha sicuramente suscitato e dato, diciamo, una base per poter portare in strada, per poter portare queste critiche con fondamento anche ad altri attori presenti, diciamo, nei movimenti sociali. Quindi, diciamo, tutto quello che sono state le case occupate, che sono le case occupate, i centri sociali, le organizzazioni ecologiste ambientaliste, che poi vedremo, diciamo, molte delle quali si smarcheranno dall'opposizione o dalla critica aperta quando nel 99 appunto Torino vincerà l'assegnazione dei giochi. E quindi chiaramente su questo lavoro informativo si sono poi andati ad innestare tutta un'altra serie di discorsi. Per quanto riguarda Torino città, beh, sicuramente è stato fatto anche un lavoro fin dall'inizio, diciamo, sia centri sociali sia case occupate hanno iniziato a prendere posizione rispetto alle Olimpiadi già prima o a ridosso dell'assegnazione dei giochi a Torino, mettendo in chiaro appunto quella che poteva essere la critica rispetto alla trasformazione della società, che della città che sarebbe avvenuta, e anche rispetto a quello che avrebbe poi significato questo grande evento anche per la questione dei movimenti sociali e così via. Per quanto riguarda invece fuori Torino, chiaramente il discorso è stato un po' quello di mettere in luce quanto, o cercare di smascherare quanto, tutti questi grandi benefici che avrebbe portato questo evento per la montagna diseredata, abbandonata, per sempre più spopolata per mancanza di lavoro e così via, in realtà sarebbero stati al massimo degli illusori contentini, e che poi in confronto a quello che avrebbe significato la gestione a posteriori di impianti e di tutto quanto, avrebbe significato comunque un impoverimento generalizzato. Diciamo che gran parte, se non tutte, le previsioni che sono state date all'inizio, quando ancora i giochi non erano fatti, si sono poi avverate. Poi magari qualcuno o qualcuna dopo di me saprà scendere meglio nel particolare di questa cosiddetta eredità olimpica. Quello che direi, diciamo, come momenti principali prima a ridosso dei giochi, sicuramente sono stati tre gli elementi che hanno, diciamo, portato un po' insieme tutte queste situazioni. Beh, innanzitutto non dimentichiamoci che a partire dall'autunno del 2005 c'è stata, diciamo, un'accelerazione all'interno dell'opposizione contro l'alta velocità in Val di Susa, che ha fatto sì che veramente finalmente si potesse vedere e toccare con mano cosa voleva dire una lotta popolare contro delle grandi opere. Quindi questo sicuramente ha dato sia il pretesto, diciamo così, l'occasione per un incontro tra diverse sensibilità, diversi percorsi in città e fuori città rispetto appunto all'opposizione a questo nuovo che avanzava, e si anche ha dato la possibilità di dire boh, contro queste opere bisogna opporsi, anche in un'ottica, diciamo, di allargare quella che può essere la nostra critica alla società e al modello, diciamo, sviluppista in generale. Diciamo che tutto, allora, come ti dicevo prima, sì, il lavoro informativo è andato avanti per anni in vario modo. Su Torino l'Osservatorio Ecologico contro la Repressione, sgomberato due volte prima dei Giochi Olimpici, ha fatto tutto un lavoro di documentazione su questo. Prima ancora sia i centri sociali di area comunista, sia le case occupate del movimento Squatter avevano già, ognuno a suo modo, denunciato quello che sarebbe stata la buffonata delle Olimpiadi e i grandi sprechi. Diciamo che quando si arriva quasi a ridosso delle Olimpiadi, queste iniziative sul territorio si moltiplicano, sono state un po' di più, anche se bisogna dire che di fronte al, diciamo, il disinteresse generale, il fatto di dire ma no, come al solito state dicendo cose che non si avvereranno e così via, le capacità di comunicazione sia in città sia fuori, col senno di poi, bisogna dire che sono state piuttosto bloccate, ecco. In effetti, ad esempio, se pensiamo alla grandissima adesione in termini di volontari che c'è stato in tutto quello che è stata la gestione mano d'opera a costo zero dell'evento, anche proprio di gente che veniva da Torino, che veniva dalle vallate e così via, diremmo che sicuramente c'è stata un'adesione, una partecipazione in questo senso, e lo vediamo ancora oggi quante volte incrociamo persone con le maglie delle giacche della Torino 2006. Sì, infatti forse per chi non è di queste zone non lo sa, ma sono molto riconoscibili, ci sono ancora i gadget, evidentemente non gadget di scarsissima qualità, perché Zainetti è già Olimpiadi 2006 sono ancora in giro per Torino e si vede ancora della gente con questi indumenti, ed effettivamente è stata una grossa invasione sia nelle montagne cosiddette olimpiche, proprio nelle valli che erano interessate dall'evento, ma anche proprio su Torino. Tante persone più e meno giovani hanno partecipato a questa grandissima operazione di lavoro gratuito. Certo, certo. E quindi io direi che potremmo, per sintetizzare un po', individuare alcuni momenti in cui, diciamo, i nodi sono venuti al pettine e l'opposizione si è un po' più vista materialmente nelle strade. Il primo è stato quello dell'indizione quando è stata indetta la tregua olimpica, cioè a fianco dei giochi olimpici sempre viene indetta una sorta di tregua che prevede il fatto dell'azzeramento o il contenimento al massimo di eventi politici, religiosi e così via in contemporanea con le Olimpiadi. Questa tregua olimpica su Torino, ad esempio, si è manifestata immediatamente con lo sgombero dei posti occupati più vicini al centro di Torino. si è vista col fatto che i sindacati confederali hanno approvato il fatto che non ci sarebbero state situazioni di conflittualità o di vertenza durante la tregua olimpica, e diciamo il movimento in maniera piuttosto unitaria antagonista torinese scese in piazza con una manifestazione appunto contro la tregua olimpica, dicendo: se voi quello che ci date è ulteriore militarizzazione, le lotte non devono certo fermarsi per questi giochi, e denunciando anche appunto tutto quello che era il contorno e l'essenza di questi giochi. Questo è stato il primo momento. Per quanto riguarda invece le vallate, il primo momento in cui si è visto già che cosa sarebbe avvenuto, e quindi ci sono state delle presenze con volantinaggi nei paesi e nelle cittadine di Fondovalle e così via, specialmente in Val Chisone. Ricordiamo che le valli olimpiche sono Val Chisone e Valle Susa che sono state interessate dai giochi. E c'è stata la presenza dei militari, perché non dimentichiamo che i giochi olimpici hanno portato su Torino e Vallate 5.000 membri delle forze dell'ordine portati da altre zone del paese e 5.000 militari a militarizzare, diciamo, tutti i zone, non soltanto i siti olimpici, ma le vie di accesso, i territori limitrofi e via dicendo. Quindi ci sono stati questi volantinaggi, queste presenze nei paesi, diciamo, con appunto alternanti risultati in quanto a comunicazione, capacità, diciamo, di far comprendere alle persone delle vallate che cosa stesse succedendo veramente. E poi, diciamo, a ridosso proprio dei giochi, i momenti, diciamo, che hanno portato più la criticità fuori sono stati la questione degli sponsor e soprattutto la torcia olimpica. Sugli sponsor, ricordiamo che gli sponsor principali erano Coca-Cola e Samsung. Ci fu un discorso, una campagna lanciata a livello internazionale, perché proprio in quegli anni stavano emergendo tutta una serie di dati rispetto alla complicità e al finanziamento della Coca-Cola Company degli squadroni della morte che stavano colpendo e massacrando i sindacalisti in Colombia. Quindi su questa cosa qua venne lanciata una campagna internazionale a cui, diciamo, si affiancarono anche partiti della sinistra istituzionale, Rifondazione e così via, rispetto a questa critica qua, e magari, diciamo, semplicemente mettendo in discussione questo aspetto del capitalismo inserito nei giochi olimpici, ma quanto piuttosto invece senza mettere troppo in discussione il grande evento in sé. Quindi gli sponsor. Dall'altra parte invece la questione della torcia, che appunto ormai è passata come una grande cosa, ma non dimentichiamo che la torcia olimpica non è un'invenzione degli antichi greci, è in versione moderna, è una rivisitazione creata da Hitler per i giochi del 36 a Berlino e quelli, gli analoghi in inverno. Quindi, diciamo, chiaramente una simbologia nazista che riprende l'antichità come hanno fatto i fascisti e tutto quanto, e che chiaramente cerca di portare e dare luce a questa situazione, a questo grande kermesse, portandolo in giro per i territori. Questo passaggio per i territori ovviamente facilitava anche il fatto che lungo la sua strada questa fiaccola incontrasse quelle che erano le criticità, le lotte, i movimenti che su questi territori si creavano. Quindi dal sud dell'Italia al nord il passaggio della fiaccola ha visto tanti momenti o di contestazione, così via, da operai licenziati a anarchici, ai movimenti ambientalisti, le lotte sul territorio, tutto quanto. In alcuni momenti ci sono state contestazioni più che altro simboliche, in altri momenti le contestazioni invece sono diventate un po' più accese nel tentativo di bloccare o addirittura, come avvenne grazie alla prodezza atletica, questa sì, dei compagni trentini, rubando a colui che la portava la fiaccola. E chiaramente queste sono state le cose. Ovviamente il passaggio sia a Torino sia in Valsusa venne ostacolato da manifestazioni appunto di protesta, la fiaccola venne cercata di essere bloccata a Cuneo, ma i compagni vennero poi portati via dalla polizia e via dicendo. Questo è il momento della fiaccola, sicuramente è stato interessante perché appunto ha permesso di far sì che questo passaggio permettesse appunto, come dicevo prima, di far vedere le lotte che sono sul territorio. Questo è stato il momento principale, secondo me quello più efficace, perché poi dopo di fatto con l'inizio vero e proprio dei giochi e la militarizzazione soffocante che si era creata, effettivamente grandi momenti di opposizione non ce ne sono più stati. Una volta che i giochi iniziarono effettivamente diventava veramente complicato fronteggiare o cercare di scalfire quello che era un apparato, un sistema di controllo preventivo e di repressione rapida sul posto, che avrebbe reso un po' difficili le mobilitazioni dei compagni e delle compagne. Ecco, magari non so se tu hai fatto un interessante storico anche, come dire, a memoria di certe cose, anche, come dire, come esempio per chi magari attorno alla Lombardia mancasse di idee, di fantasia su cosa fare a riguardo magari del passaggio della loro fiaccola, però quello che mi veniva un po' da dire anche rispetto a questa cosa e anche rispetto a agli interventi che faremo poi dopo, in cui andremo ad occuparci anche dell'eredità, diciamo, materiale di queste Olimpiadi, cioè degli ecomostri che si sono sparpagliati in giro per le nostre valli, mi veniva da chiederti se per caso avessi qualche commento da fare rispetto invece alle posture degli amministratori locali, perché sicuramente c'era un enorme entusiasmo, no, da parte dell'amministrazione locale su, appunto, il grande rilancio dell'economia e del turismo olimpica, e adesso tutti un po' a far finta di niente, insomma, di doversi gestire questa eredità molto molto ingombrante. Non so se a questo proposito magari di memoria dell'epoca c'hai qualche aneddoto o qualche situazione che ti ricordi. Ma guarda, l'adesione dal punto di vista, diciamo, istituzionale è stata pressoché totale, a parte alcuni comuni della Val di Susa, della bassa Val di Susa. In generale quello che si respirava era proprio l'aria bon. Qui c'è da mangiare per tutti, qui si rilancia, qui riusciamo a fare vedere che questo sistema di sfruttamento della montagna, che è un turismo che ormai sappiamo benissimo è esaurito, sopravvive grazie a finanziamenti per innevamenti artificiali con conseguenze per il territorio terribile. Invece loro volevano continuare a riproporre questo sistema, che poi chiaramente porta con sé tutto il corollario di alberghi, strutture ricettive e via dicendo. Quindi devo dire che secondo me sia gli amministratori locali sia, diciamo, sono stati molto in linea con quello che è stato, diciamo, l'ubriacatura generale a livello popolare. Ci sono stati gli aneddoti dei quali mi ricordo, diciamo, con terrore, sono ad esempio, appunto, quando arrivava la fiaccola olimpica, a fianco della fiaccola arrivava poi la cosiddetta carovana olimpica, una serie, diciamo, di carrozzoni con DJ, con soubrette, tutte queste cose qua che trasformavano le piazze delle cittadine che attraversavano come in una specie di studio televisivo, con tanto di indicazioni: adesso alzate le bandierine, con le bandierine non con il simbolo olimpico, le bandierine della Samsung, e tutta la gente a comando sventolava queste bandierine. Diciamo un clima piuttosto agghiacciante, nel quale infatti muoversi con una critica, se non, diciamo, per infastidire questi momenti, non è stato molto molto semplice dal punto di vista comunicativo. Però a me, visto che accennavi alla questione dei poteri locali, delle piccole istituzioni e così via, interesserebbe più che altro segnalare una cosa, che non dimentichiamoci, anche in termini di eredità, che proprio rispetto alle possibilità, qualora ci fossero degli amministratori locali e così via, che in tutta buona fede decidono di mettersi di traverso e non far passare un progetto, proprio per le Olimpiadi, nell'ottobre del 2000, venne fatta la legge 285, cioè la legge che bypassa completamente le commissioni di valutazione ambientale in cui partecipano le istituzioni locali, e che oggi come oggi è uno degli strumenti principali che, aggiornato attraverso ulteriori decreti e così via, fa sì che quando un'opera viene dichiarata strategica, le istituzioni locali, quelli che sono, diciamo, i rappresentanti sul territorio, vengono bypassati completamente, non hanno più voce in capitolo. Quindi anche su questa cosa qua, diciamo, se anche ci fosse stata un'opposizione dal punto di vista istituzionale, sarebbe stata bypassata in questa maniera, che poi sì, questa è un'eredità che ci portiamo dietro, che ha aperto proprio la strada a quella che sarebbe stata poi la gestione e che vediamo oggigiorno rispetto a tutta una serie di opere definite strategiche. A proposito di questo, volevo aggiungere che questa domenica, in effetti, a Sestriere si è tenuta come grande evento la finale di Coppa di Sci del Mondo, e sventolavano tricolori, bandierine, vabbè, di diverse realtà, nazionalità, dato il tifo, e però appunto c'erano anche queste varie banchini, varie forme di aziendine multinazionali che ti forniscono patatine fritte, qualsiasi birre, Aperol Spritz, un po' tutto, ecco, quindi grandi eventi in diverse forme. Sì, non hanno particolarmente cambiato la modalità di organizzazione anche del pubblico pagante e anche quello non pagante, ecco. E ricordo anche all'epoca delle Olimpiadi i pullman che partivano da Torino non per portare sulle persone che avevano comprato il biglietto, ma delle persone che attraversavano Sestriere e gli altri impianti solo così, come se fosse the place to be al momento, e andavano a fare turismo del turismo, ma manco andavano a vedere le gare, ecco. Esatto, era proprio così. Davvero. E va bene, noi non lo so se tu avevi ancora qualcosa da aggiungere a riguardo, magari sapendo anche che poi affronteremo appunto la questione delle opere rimaste, non so se avevi ancora qualcosa da aggiungere di particolarmente, come dire, anche di consigli, di aspettative, insomma. Ma secondo me, guarda, la cosa che mi sento di dire per la mia personale esperienza è che non bisogna aspettare fino all'ultimo per creare, diciamo, dei momenti di critica e di conflittualità rispetto a un evento del genere. Cioè tutto quello che si può costruire a livello di comunicazione, ma soprattutto a livello di presenza sul territorio, va fatto prima, va fatto con calma, perché appunto abbiamo da scalfire una macchina di creazione propagandistica molto molto forte ed efficiente, che addirittura mi azzarderei a dire che se la compariamo, diciamo, a livello, diciamo, di trasmissione di propaganda mediatica a quella del 2006, ho paura che questi anni che sono passati di mezzo hanno portato molta più acqua al loro mulino. E quindi su questa cosa qua è molto molto importante, molto importante, perché assolutamente ti permette poi di poterti muovere e poter mettere in campo delle iniziative che sono significative, perché davvero ti trovi di fronte una controparte in cui ci sono anche appunto le persone così che vivono nei tuoi stessi paesi e tutto quanto. E su questa cosa qua, secondo me, battere su quello che è stato il passato, quelli che sono stati gli sprechi delle edizioni precedenti, quello che hanno lasciato e così via, è fondamentale. Non so i risultati che possa portare, però sicuramente è fondamentale cimentarsi in questo campo qua, perché altrimenti poi dopo si rischia veramente all'ultimo di essere un po' soffocati. Come dicevo prima, quando i giochi si avvicinano veramente, la macchina repressiva e di dissuasione diventa estremamente efficace e pervasiva, ecco. Va bene, noi direi che ti ringraziamo qua dai microfoni di Blackout e dal Ponte Radio, che come ricordiamo va in diretta in 7 radio contemporanea. 346-6673-263 è il numero di telefono per scrivere messaggini su qualsiasi piattaforma di messaggistica istantanea se volete commentare questa diretta. Noi ti ringraziamo e proseguiamo con la puntata, grazie. Dai, grazie a voi, un abbraccione. Pausetta musicale e poi riprendiamo sempre le discussioni a proposito di Olimpiadi. Lumi strive del mercato, lumi strive. Thank you. 105.250, ma non solo, trasmissione Ponte Radio qui in diretta su, da Radio Blackout, ma su 7 radio italiane, trasmissione che oggi si occupa di grandi eventi e montagna come il tema di questo mese. Così una pausa da questa selezione occitana che credo ci accompagnerà. Mi prendo la maternità di questa selezione, ma volevo essere in tema, almeno ci ho provato, e non potrei dire che non mi piace, ma in realtà la verità è che un po' sì. E va bene, dopo con queste ammissioni... Sì, vi presento anche il gruppo che stavate ascoltando. Questo gruppo si chiamano Burrasc, sono occitane, sempre del lato francese, e sono un duo. E sia questo duo che le altre canzoni che stavate ascoltando durante questa trasmissione sono dei gruppi impegnati politicamente e compagni, diciamo, e quindi insomma la scelta non è stata solo estetica e di gusto musicale, ma anche di compagneria. E quindi proseguiamo con questa trasmissione andando appunto sempre a parlarvi, sia per chi sta nelle nostre zone, sia per chi sta da fuori, di quello che è ancora l'eredità olimpica delle Olimpiadi del 2006. Ormai sono passati quasi 20 anni e ci portiamo dietro un grandissimo fardello, sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista strutturale, sociale, anche sociale, chiaramente. E quindi volevamo introdurvi un'altra diretta. Prima di farlo al volo, prima di entrare nella diretta, vi ricordo ancora una volta i contatti per mandarci segnalazioni, curiosità, approfondimenti, consigli, tutto quanto, con tutti i metodi di messaggistica che voi possiate immaginare: 346-66-73-263 e invece 011-24-95-669 per chiamarci in diretta. Ok, allora mi presento, sono Luca di Radio Notav e abbiamo in diretta Mario, che è un redattore di Radio Notav, nonché esponente, ci raccontava nel 2006 di una serie di enti che si opponevano alle Olimpiadi, lo salutiamo, ciao Mario. Ciao, ciao. Ok, a tutti e a tutti. Ecco, allora nella prima parte abbiamo affrontato un po' quello che è stata l'opposizione, diciamo i tentativi di opposizione alle Olimpiadi, sia a Torino che nelle valli olimpiche, eccetera. E da questo poi volevamo anche passare un po' a quello che è l'eredità strutturale, cioè quello che è rimasto in piedi. In particolare ci viene in mente due ecomostri, come sono stati definiti, ovvero il trampolino di lancio di Pragelato e la pista di Bob di Cesana. Tu ci racconti un po', magari anche come dire, integrando la parte sull'opposizione che c'era stata alle Olimpiadi in Valle di Susa, in particolare Valle di Susa e Torino. Allora, non bisogna dimenticare che comunque questa opposizione è stata fortissima, organizzata, e siamo arrivati a un pelo a vincere quando lo stesso ministro dell'ambiente italiano si dimette dal comitato organizzatore. Siamo riusciti ad andare a Losanna, a manifestare a Losanna, perché il CONI, il CIO, scusate, il CIO impone che il comitato organizzatore si confronti con le principali organizzazioni ambientaliste presenti sul territorio. Allora le quattro organizzazioni nazionali, cioè Legambiente, WWF, Italia Nostra con Natura, si erano riunite in un osservatorio che poi diventerà Contro Olimpiade, si chiamerà, quando saranno segnate. E su queste abbiamo avuto tantissimi incontri, diciamo così, abbiamo avuto una dozzina di incontri prima dell'assegnazione, e poi la cosa è continuata in un'altra maniera, ma io a quel punto me ne ero già andato, io che ero il portavoce, me ne ero già andato sbattendo la porta. Queste Olimpiadi di tutti sono state una grande truffa, soprattutto, io voglio soltanto ricordarlo. Doveva vincere Sion, perché è una città svizzera che comunque era già stata fregata alle Olimpiadi precedenti, ma il presidente del CIO, Samaran, tra l'altro una persona con trascorsi fascisti in Spagna di altissimo livello, è inamovibile. A un certo punto si trova coinvolto nello scandalo per le Olimpiadi precedenti in America, in questo momento mi sfugge, scusate, e rischia... Iberville forse? No, allora ci sono no. stati Lillehammer, che era stato un esempio formidabile di Olimpiadi veramente ecologiche in cui facendo il minimo si aveva un grande successo. Quelli in America sono quelle parole che ti sfoggono all'ultimo momento, era lì una zona di Moloni, ma no. Vabbè, non è importante. In mente c'è la sua punta lingua, ma non mi viene in mente. Comunque l'importante è che allora Samaran chiede una perizia per giudicare il suo operato e nomina Gianni Agnelli e Henry Kissinger, che sono tre amiconi che lo salvano. Allora, per ringraziarlo, lui sposta la decisione dei giochi olimpici dal comitato olimpico, che le vecchie nazioni sono quella 20-30 nazioni in cui si pratica lo sci tutto sommato, all'assemblea dei delegati, dove ci sono tutte le nazioni, ma in molte nazioni del terzo mondo il comitato olimpico viene infatti di fatto pagato per esistere, perché non sanno neanche poterini qualche luna dove la neve. E lì, in questa assemblea, che può essere molto facilmente corrotta dandogli una panda, salta fuori alla sorpresa la candidatura di Torino. Questa è stata fatta da Gianni Agnelli per poter rifare tutti gli impianti del Sestriere, che tre mesi dopo, quattro mesi dopo la fine delle Olimpiadi, il Sestriere verrà messo in vendita. È stata un'operazione finanziaria che non poteva evitare. Ciononostante, noi abbiamo combattuto molto duramente, avevamo il diritto di parlare con i progettisti e abbiamo potuto vedere da vicino. In sostanza, quelle Olimpiadi erano un caos bestiale. C'era la parte poi organizzativa che prometteva tutto e pur di passare. C'è la parte progettuale che tra gli organizzatori, i progettisti non si parlavano, per cui gli organizzatori promettevano cose che non si potevano realizzare, i progettisti proponevano cose che comunque dal punto di vista ambientale o della urbanistica cittadini erano accettabili. Quello che adesso è l'Oval, se è l'Oval in quel posto lì, grazie a noi, loro avevano previsto la Continassa, una specie di parallelepipedo alto 30 metri, largo come lungo 150. Ti chiedo solo di spiegare un attimo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che cos'è l'Oval, perché ricordiamo questa trasmissione è un palazzo fieristico che c'è nella zona di Torino 61, un palazzo ormai ridotto rispetto a questa gigantesca struttura. A un certo punto le Olimpiadi, loro non sanno, gli organizzatori, che la velocità sul ghiaccio richiede una pista al coperto, ma questo non lo sanno già dopo averla avuta assegnata, per dirti con quale teste di minchia, per dirla bene, hanno affrontato queste Olimpiadi. Noi eravamo a queste riunioni, a un certo punto ci dicono: ma non sapevamo, gli organizzatori, c'era lì il direttore generale, non lo sapevamo che c'era da fare questo. Progettano questo palazzo incredibile alla Continassa, poi siccome non sanno cosa farne, progettano di farne un secondo piano, e questo arriva a 30 metri, dicendo: ma ne faremo un magazzino comunale, col Comune di Torino che dice: ma io non ho bisogno di mettere quella cosa lì. Questo per dirti il clima di questi grandi giochi è un clima di confusione. Di solito succede che i posti sono molto ambiti e si fanno una guerra intestina a colpi di ogni porcheria. Poi quello che vince effettivamente ottiene un ruolo nel Comitato Olimpico d'Alto, è talmente scarico da sei mesi di lotte intestine che quello per sei mesi, nove mesi non fa niente. Queste Olimpiadi di Torino sono arrivate sul filo di lana, ma non, e anche le altre, semplicemente perché l'organizzazione si forma per un confronto serrato tra partiti, correnti o d'altro, ma non è finale. E questo è tutto un gioco di persone e di soldi. L'ultima, i giochi olimpici sono giochi di soldi e di potere. Il resto non conta. Voglio solo dire questo: il fatto che i mutui avrebbero travolto Torino, e se Torino ha questo profilo grazie a Cieli, è soltanto perché il comune, per non fallire, aveva bisogno degli oneri di urbanizzazione. I grattacieli si sbloccano dopo le Olimpiadi, perché comunque Torino affoga dai debiti, poco da dire. Se c'è stata la caduta enorme di servizi, che voi non vi potete ricordare, subito dopo le Olimpiadi il Comune di Torino licenzia centinaia di dipendenti o d'altro, è una delle tante conseguenze del debito dei Giochi Olimpici. Ma tutto questo si sapeva perfettamente. Io mi ricordo, perché l'ho rivisto ancora adesso, il presidente del Consiglio regionale, che si chiamava Marchiaro, che un nostro convegno ha detto: non possiamo permetterci, perché questo, l'accensione di tutti questi mutui manderà all'aria il comune, lo stato sociale del comune di Torino. Ma questo si sapeva. Si sapeva benissimo che la pista di Abob e che la pista di Saldo non sarebbero state utilizzate. Noi abbiamo fatto una guerra disperata per imporli o Albertville, che comunque c'era, non era un impianto a casa del diavolo. Noi dicevamo: a Cortina se si può, ci hanno detto a Cortina non si può. Allora Lille ad Albertville, che l'abbiamo fatta 12 anni fa, gli impianti sono là, non, niente, questi volevano spendere soldi. Il fine olimpico che è un po' anche quello che è risuccesso adesso, nel senso che la pista da Bob di Cesana, sono tutti amici quelli che sono successi adesso, però se posso dire una cosa, e la posso dire adesso perché le cose ormai sono finite, mai una volta che c'è stata una telefonata per dire: qual è la vostra esperienza di questo confronto, visto che più o meno i grossi mostri di interesse sono sempre gli stessi. Loro hanno fatto bene, per carità, io non dico nulla, però certamente se ci avessero quantomeno fatto un incontro, avremmo potuto dirgli tante cose sui trucchi attraverso cui viene portate avanti queste opere, che vengono fatte, modificate, poi entra l'altro, questo non si può fare. Va bene così, nessuna accusa. Se ci fosse la disgrazia di un'altra Olimpiadi, diciamo, io che raccomando, fate un incontro con quelli che l'hanno combattuta prima, perché è vero che l'esperienza è una cosa bruttissima, perché sembra che uno si senta più su. No, uno che ha l'esperienza non è uno che si sente più su, è uno che ne ha prese di più, e quindi da uno che è un povero Cristo che ne ha prese di più si può sempre parlare. Ok Mario, e a proposito invece insomma della pista di Bob, quella che c'è a Cesana, io qui davanti ho un articolo del 26 di novembre che dice che la pista di Bob di Cesana Pariol verrà smantellata. L'ecomostro piemontese inutilizzato da 13 anni e il ministro Abodi, l'area sarà sottoposta a ricucitura ambientale. Già è un termine molto interessante, io non l'avevo mai sentito, magari tu invece lavorando appunto nell'ambito delle cose ambientaliste sai di questa ricucitura ambientale. Però mi ricordo che circa un anno fa due anni fa ne avevamo parlato proprio a Radio Notav sulla questione che c'era stato un altro progetto, anche quello fantasmagorico, che era uno Sky Dome, ovvero una specie di palazzetto al coperto con le piste di sci all'interno, si può andare a sciare anche d'estate. Come a Dubai. Ecco, come a Dubai. Ci sai raccontare un po' di questa vicenda della pista di Bob? Certamente, questa, come vi dicevo, è stata voluta così com'era, dopo essere stata spostata tre volte. La prima volta non mi ricordo, la seconda volta doveva essere Sauceduc, questa, hanno trovato così tanto amianto che hanno dovuto scappare. La terza, di fretta, fanno questo posto, che tra l'altro è il posto più bello, chi arriva in Italia la prima cosa che vede è lì davanti, e ci hanno fatto naturalmente, massacrano tutto. Che noi avevamo proposto appunto alternativa, non le hanno volute. In sostanza, questa pista che facciano, quella che appunto tu mi riferisci a ricostituzione ambientale, ricordo bene questo termine, sono termini da architetti. Gli architetti sono persone che si inventano dei termini strani perché così incantano qualcheduno, perché siccome li hanno inventati loro, gli altri non capiscono cosa vogliono dire. Ricostituzione ambientale vuol dire tutto, vuol dire anche farci condomini. Perché comunque sia, è vero che c'è lì, io che faranno una ricucitura o saldatura o d'altro, non ci credo finché lo vedo. perché ho visto tantissime battaglie ambientali. Magari viste. Fanno un rammendo ambientale piuttosto che una ricucitura. Io ho paura che questa faccenda dell'entrata del Corso Mediterraneo a Cesana, che dicono ma lo faremo a San Sicario, io ho proprio paura che invece la collocheranno lì, farà due o tre giri. Non che cos'è esattamente la Col Mediterraneo? Scusa, giusto perché appunto ci sono tanti ascoltatori che magari... Sì, Giscard d'Estaing, ex presidente della Repubblica Francese, noto perché si faceva regalare i diamanti di sangue da Bokassa, che era un brutto tipo, ha annunciato qualche mese fa che il Corso Mediterraneo intende aprire una grossa struttura cesana, e sembra che sia che la vogliono aprire nell'area già di San Sicario, una famosa speculazione degli anni 70. Io non so se quello d'altro, ma che loro, che la speculazione che io ho vissuto tutta in questi ultimi 50 anni, quindi lì diciamo non c'è quasi zona su cui non ci sia stata una nostra battaglia, so che torna sempre perché comunque è un ambiente favorevole, ha comunque le amministrazioni favorevolissime. L'altra valle, se esiste una Sodoma e Gomorra, per usare il termine biblico, della speculazione edilizia, questa è l'Alta Val di Susa. In questi ultimi 50 anni le amministrazioni hanno sempre fatto il possibile e l'illegittimo pur di mettere dentro quelle cose lì, andando largamente a braccetto con la malavita organizzata. Quindi in quell'ambiente, adesso per carità, adesso sono tutti buoni e tutti santi, non ho nessuna accusa particolare, ma nell'alta valle c'è un substrato che non si stradica. Ora il sindaco ha già detto che lui è favorevolissimo, insomma, quell'area lì che ormai è ideale, perché un'area già compromessa, non era un'area bellissima, ma è già compromessa, quindi compromettere un'area compromessa è peccato meno grave. E certo, fanno come... Non so quando. Lo schidome era una cazzata, appunto, perché ad Abu Dhabi di solito tu eviti di andare al sole perché il sole ti scalda. Se tu vieni in alta montagna invece di solito vuoi vedere il sole. Pensare un impianto del genere voleva dire ficcarsi in un capannone a serpentina con la luce al neon e stare lì fino a che il sole non andava giù. Che non è una cosa che uno lo fa una volta, due, ma non è che lo faccia tutti i giorni. No, poi immaginiamo che sia una cosa anche abbastanza onerosa da un punto di vista ambientale, visto che insomma devi raffreddare una struttura, ecco, per farci stare la neve, eccetera, eccetera. Va bene. Noi mettiamo pannelli solari e figurati, autosostenibile. Col sole di agosto, di luglio, se riesci a fare l'energia elettrica per tenere il ghiaccio sotto. Ok. Ma, intanto queste cose le paga il pubblico, è un accordo politico. E questi qui vivono di contributi perché te lo fanno passare come vogliono. E certo, una di questi modi è appunto quella che nel giornale viene ribattezzata ricucitura ambientale, sulla quale tu ci avvisi che non vuol dire niente, vuol dire tutto, nel senso che potrebbe... Non esiste quel termine nella nomenclatura, diciamo così, tecnica. Gli architetti fanno i termini nuovi per confondere le idee e poter avere mano libera. Ok, questo sono i quei termini. A proposito di questi termini e altri lasciti ambientali nelle alte valli, mi viene il parallelo con invece quell'altro enorme sbreco che sta sulle montagne, certo, che è la pista di salto, il trampolino, certo, di salto, anzi, di Pregelato, trampolino che è rimasto completamente inutilizzato, mentre la pista da Bob ha avuto un utilizzo almeno dopo la sua costruzione post Olimpiadi, cioè, anzi cinque mi fanno notare, quella di Pregelato è rimasta completamente abbandonata per 20 anni. Ricorda e... nel termine però di sempre trampolini, perché mica ce n'è uno, solo. Sono tre. Quando si fa il trampolino sono tre. E infatti molto visibili anche da molto lontano, che tagliano come una ferita al bosco di Pregelato, e in questo momento c'è l'ipotesi di riconvertire almeno in parte, anzi solo in parte, questo spazio a un allargamento della pista baby, quindi una piccola pista diciamo di apprendimento dello sci, mentre invece il re resto dell'impianto rimane lì cercando di in parte di coprirlo con chili e chili di terreno e in parte di farlo diventare un'installazione artistica, perché costa talmente tanto l'ipotesi di smantellarlo per davvero, quindi di restaurare diciamo alla natura almeno lo spazio della foresta, che in questo momento l'ipotesi è un'installazione artistica in mezzo alla montagna. E il sindaco posso di... Posso fare solo un'aggiunta? In realtà i soldi per tirarlo giù ci sono, il famoso tesoretto olimpico, che erano i fondi avanzati dalla vendita dei biglietti, perché c'è una parte che viene pagata allo Stato e quello è un passivo, non ricordo più se poi io ho fatto i conti, eravamo 2500 miliardi, non mi ricordo più, di lire. Poi però c'è la gestione pura dei biglietti, quella reattiva. Quel tesoretto lì se lo sono già rilanciati per tutte le varie iniziative, ma invece dovrebbe essere prioritariamente per togliere questi obbrobri. Se fanno un monumento, questo secondo me deve essere scritto e inaugurato come monumento allo spreco. Manca in Italia il monumento allo spreco, anche se questo è un eroismo politico estremamente diffuso. E il sindaco di Pregelato l'altro giorno si dichiarava estremamente felice di poter mantenere lascito di averlo come visivamente questo lascito delle Olimpiadi. Probabilmente doveva chiaramente salvare capre cavoli e soprattutto la sua faccia di fronte all'elettorato, però insomma questo anche per ribadire quello che dicevi tu prima rispetto alla connivenza delle amministrazioni locali delle alte valli, che ormai sono completamente asservite almeno in parte alle logiche di un turismo e di uno sfruttamento del territorio non solo non sostenibile ma completamente deleterio. È vero. Ok Mario, noi ti ringraziamo, sei stato preziosissimo come sempre e niente, ci vediamo alla trasmissione Radio Notav. Un saluto a tutti. Appena mi tolgo da questa bronchite arrivo. Va bene, ciao. Ecco. Volevamo prima di passare all'ultima parte di questa trasmissione ricordare ancora i numeri di telefono 346-6673-263 per chi ci scrivesse anche da fuori Torino per poter partecipare a questa trasmissione, vi invitiamo a farlo e ci scrivono chiedendoci qual era il gruppo a cappella che ho selezionato prima, quindi facendo un apprezzamento sulla mia selezione musicale che ringrazio. Loro si chiamano le Coccagna, scritto con la NHA finale, e quindi visto che vi sono piaciute vi sottopongo un'altra canzone loro. Questa è Que Son Oros. Un jour, des matins, à l'aube, ou beu à la tombade, ou beu au mi-temps de la neige, partirai. Partirai par l'amour que vous savez. Prendrai sa bode, cao que souvenance, un trot de marandelle, ou pierre un darguéco la porte de sa neige, ou de sa miconie du pays. Et traversa le demain tout inter, vers un brassa l'avenir. Zati, le brave viad, tantat sous vous chiao migratou dans le monde des louom. Que sériou benèze des voulas, per des soubres et des louclao, per un semensa, l'eichi ou tampao d'un acomai, pulio que te trapa la zal, d'une lotial ou de l'odouane. Bene, allora riprendiamo la diretta qui dal Ponte Radio e parliamo anche di, insomma, è vero che questo Ponte Radio è sui grandi eventi, ma la questione delle grandi opere sulla montagna ci tocca particolarmente, almeno parlo della Valle di Susa, che è investita da questo mega progetto della linea ad alta velocità, alta capacità, insomma. Quasi tutti gli ascoltatori di Radio Blackout ne sanno, perché Radio Notava è una trasmissione che ha cadenza settimanale. Per chi invece ascolta da altri luoghi di Italia, la situazione attuale è quella che vede il cantiere principale, diciamo quello da cui dovrebbe partire la perforazione della montagna, che è completamente fermo al momento, nel senso che le talpe famose non ci sono. Sembra che in questi giorni ne sia arrivata una dalla parte francese, però dovrà ancora essere montata, eccetera. E ricordiamo che comunque si tratta di un tunnel di 52 km, quindi molto molto lungo, ecco, da realizzare. Il progetto originale era quello di far partire da Venaus, che è un piccolo paese sopra a Susa, il lavoro del tunnel. tunnel, però nel 2008 era stato poi in realtà bloccato questo progetto perché c'erano state delle grosse manifestazioni popolari che avevano proprio smantellato il presidio delle forze dell'ordine. Insomma, questa è la storia passata. Quindi il cantiere della Clarea al momento non è ancora, cioè rimane lì fermo, ecco, e si tratta della zona di Chiomonte dei Mulini. Sì, e anche rispetto a, cioè, l'attenzione è sempre rimasta focalizzata su questo grande buco che dovrebbe essere poi questo grande tunnel che permette a questo grandissimo treno velocissimo di passare, ma c'è una problematica in più che è quello di cui insomma in questi anni si sta cercando di focalizzare anche l'attenzione, che è lo svuotamento di questa montagna sopra il futuro tunnel. Cioè in realtà la montagna c'è già, è il tunnel che va, che dovrebbe avere solo 500 metri di montagna sopra, in realtà ne ha 2005, e bisogna alleggerirla, insomma, e alleggerire questi 2000 metri di montagna vuol dire svuotarla di tutta l'acqua che porta con sé, perché il rischio è seriamente quello di una volta fatto il buco che il buco si riempia di nuovo, comunque crolli la montagna sopra questo buco. Ok, e questa è una parte dei lavori, però nel corso degli anni la ditta che è incaricata ha comunque continuato a lavorare, diciamo, su quello che si chiama i lavori accessori, nel senso che c'è stato lo spostamento, c'è ancora attualmente lo spostamento dell'autoporto di Susa a San Didero, che è un piccolo paese prossimo a Bussoleno, quindi diciamo nella parte dell'Alta Valle. C'è stata l'occupazione alcuni anni fa del presidio di San Didero, e poi è stato sgomberato dalle forze dell'ordine. In questi giorni stanno ricominciando i lavori lì perché stanno costruendo un'enorme rotonda stradale proprio per permettere l'ingresso dei camion e delle altre cose al nuovo autoporto che ci sarà lì a San Didero. Ricordiamo che, insomma, per chi non è propriamente vicino a Torino, che l'autoporto era già in funzione a Susa, dopo essere stato progettato e quasi realizzato a San Didero circa una trentina di anni fa, poi è stato spostato su Susa e adesso lo rimettono su San Didero, naturalmente rifacendo tutto ex novo. Poi c'è un altro cantiere ancora, che è quello di Salbertrand. Salbertrand è un paese nell'Alta Valle sopra Susa, e dove dovrebbero fare la fabbrica dei conci, ovvero di quelle strutture che servono per fare i plinti interni delle gallerie. Insomma, si fa il buco con la talpa e poi viene rinforzato tutto con questi modelli in cemento, e lì dovrebbe esserci il lavoro di realizzazione di questi conci. È stato fermo questo cantiere per anni e anni perché lì c'erano dei grossi depositi di amianto e di altri materiali pericolosi che, giusto per legarci alla trasmissione di oggi, arrivavano dalla costruzione della superstrada che collega la Bassa Valle con Sestriere. Quindi anche lì c'erano stati problemi enormi, soprattutto nello scavo di alcune gallerie, perché non avevano potuto farle perché c'era l'amianto. Quindi questa è un po' la situazione. In questi ultimi giorni, in questa settimana, ci sono stati degli altri movimenti da parte soprattutto delle forze dell'ordine, che accompagnano in grande numero le trivelle, che in questo caso sono state piazzate nella zona di Venaus e limitrofi. Quello che ci faceva notare Mario, che avete appena sentito nella trasmissione di ieri, è che stranamente queste trivellazioni sono sempre a margine delle zone che sono poi interessate dei lavori, cioè non vengono mai fatte le trivellazioni nel luogo in cui dovrebbero poi fare i lavori, ma sempre un po' discosto, e non si capisce ancora il motivo di questo comportamento. Questa settimana sono iniziate, infatti, infatti a Venaus le trivellazioni di, per realizzare questi due pozzi profondi 40-50 metri dove posare questi cavi di collegamento alla, alla linea alta velocità del cantiere di Chiomonte, e, con ovviamente diversi disagi non solo per la nostra circolazione ma soprattutto per i terreni. Lì ricordiamo che la Val Cenischia c'è il fiume, c'è sì, una zona... Sulla Val Cenischia poi c'è quest'ultima novità di cui parlava Mario ieri in radio, che stanno pensando appunto di fare passare sotto al, al torrente, adesso non so se il Cenischia o il Clarea, comunque un lavoro della Madonna per evitare appunto di fare una enorme, un enorme porte, ponte sospeso che attraverserebbe tutta la Val Cenischia. Per ultimo c'è tutto il cantiere che stanno cominciando a progettare nella Piana di Susa, ovvero tra Susa e Bussoleno ci sono una serie di cantieri che vengono messi in campo, perché naturalmente la, la ferrovia dovrà da Bussoleno dovrà arrivare a Susa e lì ci sarà la stazione internazionale su due piani, il piano del, come dire, della ferrovia locale e poi l'altro piano, quello che porta verso la Francia. La cosa interessante è che i turisti che andranno a nelle valli olimpiche dovranno scendere dal treno a Susa e ritornare a Bussoleno per poter prendere il treno che va su in alta valle di Susa, perché naturalmente il treno dell'alta velocità da Susa entra nella montagna e la linea Torino-Susa si blocca a Susa, per cui per poter andare poi nelle valli olimpiche a farsi una sciata bisogna ritornare su Bussoleno, quindi vi immaginate la comodità. Beh, diciamo che anche la questione della stazione di Susa, che verrà chiusa ufficialmente a luglio del 2026, quindi l'anno prossimo, non sarà prevista una riapertura, quindi il tratto che da Bussoleno ferroviario che da Bussoleno arriva a Susa è questo ramo secco che da anni, da decenni si vuole tagliare per, e che taglierà, scollegherà la città di Susa da la stazione di Bussoleno, quindi è un altro, cioè diciamo che la ecco quello che ci può collegare al tema principale di questa trasmissione è che la sensatezza in questo progetto da un punto di vista tecnico non c'è, è un progetto che è che è politico e che trova la sua messa in opera grazie alla collusione che ha con la ramificazione mafiosa che c'è in Val di Susa. Ok, e tra l'altro, giusto per fare anche un'analogia, è vero che le Olimpiadi hanno una scadenza, nel senso bisogna farle nel 2026, a febbraio o a gennaio quando sarà. Sulla linea ad alta velocità invece possono andare avanti quanto vogliono, anche in eterno. E, va bene, quindi questa era anche una panoramica della gestione in generale di quelle che sono le opere in montagna, in alta montagna. È vero che le Olimpiadi del 2006 hanno portato una grossa spinta di militarizzazione, come diceva la diretta di quasi un'oretta fa, rispetto alla presenza appunto della sicurezza, come dire, per garantire le grandi, i grandi eventi, ed è una cosa che nella Val di Susa in generale, nelle valli alpine torinesi, non se n'è mai veramente andata. Questo appunto era anche un po' di continuità, diciamo, rispetto alle nostre valli. Sicuramente rimane da vedere come sarà gestita questo evento nelle valli di Cortina. La storia del territorio è sicuramente molto diversa. Noi magari ci aspettiamo di sentire, di conoscere delle storie di resistenza che magari da qua non conosciamo, per cui se qualcuno all'ascolto da fuori Torino volesse intervenire, ripetiamo che i numeri di telefono di Radio Blackout sono sempre disponibili: 346-6673-263 è il numero per i messaggi in qualsiasi forma e piattaforma, 011-249-5669 per le chiamate. E vogliamo fare una pausetta musicale prima di proseguire con l'ultima parte di questa trasmissione. Queste sono le Kete Calles direttamente da Barcellona. Yeah. amor que ya ha pasado se debe recordar. Cada vez que me voy se tatúa la culpa en mi corazón. Cada vez que me voy, ay, cada vez queda un grande vacío en tu salón. Cada vez he llorado, peleado, lo que ya se había acabado. Qué frágil ese instante donde se hiela el aire y la pena de desprenderse será consuelo más tarde. Lagrimitas que caen, que me arañan el alma, son agüita sala, mojando mis pestañas. Lo vivido es recuerdo que guardo en un rincón mientras cantamos con cariño nuestra última canción. Y el tiempo que todo determina me pone a ras de suelo. Antes estuve arriba, la ruta parece infinita hasta que se termina. Soltar y así dejar marchar en esta despedida. Si tú te vas o yo me voy, falta el calor, el te quiero, pero yo no me lamento, no. No te agarres a mí, me ahogo. Llegaste tarde, no te cuentes más excusas, porque ya ni yo me la creo. Como la sola repico la roca y vuelvo a mi mar. Sin rencor guardar todo lo vivido, el trozo del camino, ahora toca marchar. Quema un poco, ay, por tu ausencia. Te echo de menos, pero lo ves que no pasa mal. Siento si te dolió solo ser una apuesta. Como un silencio no mata. Si tú te vas o yo me voy, falta calor, te quiero, pero yo no me lamento. Hey, no te agarres a mí, me ahogo. Llegaste tarde, no te cuentes más excusas, porque ya ni yo me la creo. Como una sola repico la roca y vuelvo a mi mar. Sin rencor guardar todo lo vivido, el trozo del camino, ahora toca marchar. Me voy de aquí, mejor así. Ay, mi amor, vive feliz lejos de aquí sin mí. Ay, mi amor, si hay que morir, déjenme decidir. Dejando atrás las vidas pasar con armonía y libertad. E queste erano appunto le Ketekaies, un po' di saudade per andare verso l'ultima parte di questa trasmissione. Ci scrivono qui al 346-6673-263 che le Olimpiadi del 2026 saranno a febbraio, quindi abbiamo un annetto per prepararci, anche se le questioni sono già aperte, i cantieri stanno andando a sprombattuto. E anzi, ricordiamo che la settimana scorsa si è paventato un'ipotesi di sabotaggio nel cantiere appunto a Cortina. In realtà le indagini sono ancora in corso. Quello che è successo è che un condotto di energia è stato trovato spostato, quindi si sono bloccati i lavori perché c'era dei cavi tolti, diciamo, però appunto si è paventato l'ipotesi di sabotaggio sui lavori. Eh sì, proprio un po' a partire da questo vorremmo così introdurre quest'ultima parte di trasmissione, in cui vorremmo occuparci di quello che saranno le nuove Olimpiadi, le Olimpiadi che vengono, ma anche il rapporto delle passate, delle attuali Olimpiadi con la città. Ne abbiamo già parlato, in qualche modo è già uscito il tema, c'è cioè una importante connessione di flussi che erano stati di persone, denaro, sulla diciamo fra la città e la montagna. Sicuramente quello che è rimasto nella città di Torino, da cui vi parliamo, è sicuramente veramente un debito strangolante per le casse pubbliche, un debito di 3 miliardi che ha visto la città di Torino essere per anni una delle città più indebitate d'Italia. E come veniva già ricordato, questa d'Europa, c'è stato un momento in cui le casse della città, della provincia di Torino, quella che all'epoca era la provincia, erano notoriamente le più indebitate di tutta Europa. Perché ogni tanto Torino non è così solo sabauda e di basso profilo, ma spendiamo anche prova noi, a fare il salto in fallito, alto. Fallitissimo, preso proprio sui denti, faccia avanti. E questo naturalmente ha lasciato tutto questo con Italia Welfare, ma non solo quello, ha lasciato anche in città buchi e infrastrutture che diciamo sono rimasti dei morti urbani decadenti, o invece in qualche caso sono stati ci sono stati dei tentativi di riappropriazione, come è stato per l'ex Moi, l'ex villaggio olimpico, che poi invece negli ultimi anni dopo il dolce sgombero, come l'hanno chiamato le autorità cittadine, e non solo le autorità cittadine ma proprio quella coalizione cittadina finanziaria e del filantrocapitalismo, che ha dei nomi ben precisi come Fondazione San Paolo. Sì, per chi non fosse di Torino, faccio giusto una piccola didascalia. L'ex Moi era la zona del Mercato Generale di Torino che è stata demolita e ricostruita come case per gli atleti dell'evento olimpico, che si trova dentro la città di Torino in zona sud vicino alla stazione Lingotto. In questa zona sono state costruite delle palazzine che sono diventate fatiscenti nel giro di pochissimo tempo, erano destinate nella testa e nella narrativa di chi l'aveva costruita a diventare case popolari, mai diventate case popolari perché gran parte di queste strutture non erano agibili già poco dopo le Olimpiadi, rimaste quindi abbandonate, hanno visto una delle esperienze di occupazione abitativa più grosse degli ultimi anni della storia torinese, molto complicata come gestione delle relazioni con il bisogno di chi aveva appunto bisogno di un tetto sopra la casa, tanto che a un certo punto appunto è avvenuta questa operazione politica dello tra virgolette sgombero dolce, che è avvenuta attraverso tutta una serie di offerte alternative di ricollocamento e anche molta gente che è stata lasciata per strada. Sì, ed è un progetto che adesso diventa, diciamo, dagli ultimi lanci, la rinascita dell'ex villaggio olimpico a Torino. Questo lo prendo direttamente da una delle pagine dei fondi finanziari che si occupano della ristrutturazione e collegamento. Diventerà student housing d'impatto, così ci tutto, mancava proprio un altro studentato, una serie di parole che vanno sempre bene così messe insieme, agli ordine sparso house, loft e poi un impatto non lo vuoi mettere, che da questo segno così di... Adesso ho imparato ricucitura ambientale, penserò solo ai rammendi di mia nonna per sempre. E naturalmente tutto questo cioè, oltre a queste, cioè nel senso le infrastrutture, i pezzi di welfare venduti, le infrastrutture lasciate lì a morire, fra le cose che sono state invece svendute per ripagare il debito cittadino, naturalmente ci sono tante di quelle infrastrutture sportive di base che erano patrimonio pubblico, erano la possibilità di praticare sport nella città, che ormai sono praticamente totalmente privatizzate, e su questo vi consiglio anche di andare a risentirvi l'ultima puntata di Spot, dove abbiamo parlato del caso di Oxiglia, che è uno dei campi che era vissuto da una delle esperienze di sport popolare di questa città. E Spot, che... trasmissione in onda su Radio Blackout, che parla di sport popolare, per chi non sa a memoria il palinsesto della radio. Meno male che ci sei, che mi fai questi... sono didascalica, sì, lo so. No, grazie mille. Però tutto questo anche per portarci invece a quello che sta succedendo a Milano, e questa era una brevissimo così inciso di introduzione. Con la diretta con Luca di Off Topic, che dovrebbe sentirci. Ci senti? Ciao a tutti, ci sono, eccomi. Ok, grazie, grazie mille anche di questa attesa, per questo lungo per questa lunga introduzione, però volevamo un po' fare un parallelo su quanto sta succedendo, per aggiornarci anche su quello che sta succedendo a Milano e quelle che saranno, quelle che sono poi so che voi con Off Topic seguite molto da vicino quello che è l'opposizione sociale e i tentativi di contrasto ai progetti olimpici di Milano Cortina e anche a quello che sta piombando sulla città di Milano in questi mega progetti e mega eventi. Sì, guarda, la tua introduzione, come dire, potevamo cambiare in parte il nome della città su molte delle cose che avete detto e mettere Milano al posto di Torino e ci sarebbe stato benissimo. Nel senso che quello che vediamo noi a Milano in questo periodo è da un lato appunto una dinamica simile a quella vissuta da Torino, quindi cito una cosa a caso e che è anche un paradosso se ci pensiamo, che dietro il trionfalismo olimpico in realtà si nasconde una progressiva privatizzazione, chiusura, abbandono di tante strutture pubbliche, sportive, che siano impianti, piscine, palestre o addirittura palazzetti, proprio perché, come è successo a Torino, anche a Milano il comune dice non abbiamo più i soldi per gestire direttamente uno sport pubblico, accessibile e frequentabile a prescindere dalle disponibilità economiche. Dall'altro ci sembra di rivedere in misura amplificata, purtroppo, quello che noi abbiamo già vissuto non più tardi di 10 anni fa in questa città con l'altro grande evento che abbiamo attraversato, cioè Expo 2015, e quindi un'accelerazione di tutti quei processi di privatizzazione della città pubblica, di consegna della città in mano a sviluppatori immobiliari, speculatori, finanziarie e quant'altro che costruiscono ogni centimetro quadrato, mi viene da dire, neanche metro quadrato, di area libera, ma su questo credo che le cronache non solo locali ma anche nazionali siano state intasate in questi mesi da tutte i dibattiti e i discorsi riguardo a quel famigerato provvedimento chiamato Salva Milano, che in realtà salva i soldi di lor signori e non la città. Quindi un qualcosa che ci aspettavamo, che abbiamo denunciato e che va avanti, mi viene da dire, nonostante tutto, cioè nonostante in questa città ormai ci siano ampie fasce di popolazione, e non penso necessariamente agli strati più popolari, alle classi proletarie, a migranti o quant'altro, ma anche a fette ampie del ceto medio, di lavoratori cosiddetti poveri o di quei lavoratori che mandano avanti la macchina dell'eventificio Milano, sempre meno come dire, messi nella condizione di poter continuare a vivere in questa città. Con Expo 2015 queste cose erano già state denunciate. Negli anni passati da Expo 2015 a oggi queste cose hanno svelato tutto il loro volto predatorio e come dire, di esclusività ed esclusione della città rispetto appunto a chi non ha un certo livello di reddito. Con le Olimpiadi queste cose rischiano di diventare ancora più evidenti a partire da quei quartieri periferici, nella fattispecie la zona sud-est di Milano, cioè il Corvetto, che più direttamente sono investiti o comunque toccati dall'alone delle opere olimpiche e dei giochi, ecco. Quindi mi ritrovo ampiamente in quell'analisi che avete fatto nella vostra introduzione. Eh sì, su questo, come dicevamo, questi grandi eventi hanno delle similitudini, per cui mettono il ciclo di impatto, riprendendo quanto dicevamo prima, sui territori, che sia montano che cittadino. È il caso di Corvetto e di un altro così intervento di costruzione di quello che sarà un villaggio olimpico, come fu quello torinese, ancora tutto da vedere, e però con già degli esiti certi ben evidenti nel tessuto urbano milanese e nei tentativi di rivalorizzazione e di speculazione immobiliare rispetto a quei territori. E dall'altra parte, di nuovo, però, anche un impatto che è quello sulla montagna, nonostante tutto e contro ogni parere. Solo questa mattina uno dei nostri ascoltatori e ascoltatrici ci ha mandato l'ennesimo articolo che ricorda come il CIO si sia dichiarato, abbia espresso un parere sfavorevole o comunque negativo rispetto all'impianto di Bob, credo, di Cortina, se penso di non sbagliare. Per cui però, nonostante tutto, nonostante le varie valutazioni, si è continuato a decidere di voler fare un nuovo impianto e continuare a cementificare la montagna. Esattamente, ma guarda, proprio l'altra sera, in un incontro che abbiamo fatto a Milano, citavamo quello che era, la mission, o comunque la visione di base che la Fondazione Milano Cortina aveva dichiarato allorquando furono assegnate le Olimpiadi Milano, no? Quindi da un lato dicevano saranno le Olimpiadi più sostenibili di sempre sul piano ambientale, ma come tu ricordavi poc'anzi, questa sostenibilità sul piano ambientale si traduce in realtà nell'ennesima opera inutile, a detta appunto del CIO, cioè la pista da bob a Cortina, ma non solo, anche in un generale impatto sui territori della montagna veneta e altoatesina, ma anche delle pianure lombarde e venete, con opere assolutamente funzionali solo ad un trasporto fossile privato su gomma, con evidente aumento del consumo di suolo, con la devastazione di impianti con la devastazione di versanti e paesaggi montani per la realizzazione di nuovi impianti, non solo a Cortina ma anche nella zona di Bormio e di Vigno, per nuovi impianti di innevamento, per tutto quello che serve oggi per far sciare la gente, perché oggi, diciamocelo chiaro, sulle Alpi, soprattutto sul versante sud delle Alpi, senza innevamento artificiale, senza finanziamenti pubblici a coprire i costi della gestione degli impianti, senza drogare il turismo alpino, oltre la sopportabilità delle stesse vallate, non c'è possibilità di praticare lo sci, perché sì, fa caldo, perché non nevica, perché le condizioni climatiche lo impediscono. E tra l'altro ricordiamo, se ti interrompo, giusto per aggiungere un elemento a quello che giustamente stavi dicendo tu rispetto alla sostenibilità dello sport dello sci in montagna, anche nel caso in cui nevichi, il 90%, ma letteralmente il 90% delle giornate in cui gli impianti sono aperti sono corroborate dalla neve artificiale, perché la neve può non essere nelle condizioni giuste e sicure, o non essere abbastanza, quindi anche nel caso ci sia la neve può non essere abbastanza, e soprattutto l'innevimento artificiale non è solo una roba brutta da vedere e fastidiosa, perché comunque c'è l'unica parte innevata è la pista, ma è un'idrovora letteralmente di risorse idriche della montagna, e in più parti delle montagne del versante sud, che è il versante italiano, grandi riserve idriche vengono completamente dedicate all'innevamento artificiale, e direi che proprio non è la direzione intelligente in questo momento. Infatti è proprio così come dicevi tu, L'altro ossimoro contenuto in quella, o meglio, questo è l'ossimoro, quello della sostenibilità. L'altra cosa che dichiaravano in quel documento è proprio che per loro la funzione di queste Olimpiadi era, è ed era quella di rilanciare ancora di più, se possibile, il ruolo internazionale di Milano e Cortina dentro quello che è un po' il mercato, diciamo così, di un certo tipo di turismo o di un certo tipo di vocazione turistica, arrivando a dire nel caso di Milano, per riaffermare la vocazione della città a città votata agli eventi. Ora noi lo stiamo vedendo cosa vuol dire questa vocazione di città votata agli eventi. Proprio stamattina il Corriere della Sera portava un articolo su questo argomento. La città a misura degli eventi, quindi una città sempre più attenta ad attrarre flussi temporanei, che siano quelli dei turisti, che siano quelli degli studenti fuori sede, che siano quelli dei manager o comunque di chi decide di comprarsi casa a Milano perché ogni tanto magari ci passo, sta portando a prezzi al metro quadro sopra i 5.000 euro anche nelle periferie, cioè dei prezzi che le persone normali, chi lavora, a prescindere dal lavoro che faccia, non si può permettere. E quindi riaffermano una vocazione di questa città che deve essere quella di attrarre nuovi capitali, nuovi visitatori e nuovi abitanti. Fa niente se ci sono degli abitanti già presenti che sempre di più fanno fatica a continuare a vivere in questa città, a partire da quelle tante e tanti lavoratrici e lavoratori che mandano avanti quell'economia dell'evento di cui vive questa città, dalle imprese di pulizie, i rider, i vari servizi della logistica, il circuito della ristorazione. Cioè potremmo fare centinaia di esempi di categorie di lavoratori e lavoratrici professionali che sono indispensabili per il PIL, come si suol dire, di questa città, ma che in questa città non trovano più posto. E questo è il vero dramma, ed è questa la scommessa su cui noi stiamo giocando oggi, che non è tanto realisticamente quella di bloccare i giochi, perché ovviamente è una grande aspettativa, una grande speranza, ma anche un miraggio, no? Ma quella di il 22 marzo 2026, quando finiranno le Olimpiadi e le Paraolimpiadi Milano-Cortina, di andare a rivendicare sul villaggio olimpico, sugli studentati che sorgeranno su quell'area, altre cose da quelle previste. E quindi non case per ricchi, non studentati a 1.000-1.200 euro al mese per avere una stanza, ma case popolari, studentati per tutti, ma soprattutto una città pensata per chi la vive 365 giorni all'anno e non per chi la deve sfruttare e predare per qualche settimana. Su questo, e così andiamo in chiusura, visto che sta finendo anche il tempo di Ponte Radio, due cose volanti che mi si ricollegano perfettamente a quanto stavi dicendo, è che quella vita è anche una vita che perde pezzi e possibilità all'interno della città con sempre più posti abbandonati e privatizzati, e mi viene in mente la piscina Lido, zona verso San Siro, che sta avendo un processo di esternalizzazione e comprata da una finanziaria spagnola, e invece che si ricollega anche alle lotte che si stanno portando avanti nel territorio milanese e non solo, al caso del palaghiaccio, sempre più o meno in zona. E quindi ti vorrei chiedere un po' questo, e se vuoi riconnetterti a quali saranno i prossimi appuntamenti, che cosa si sta muovendo e come possiamo un po' seguire e rilanciare le mobilitazioni di contrasto a Milano Cortina 26. Sì, certo, tu hai ricordato la vicenda del Palagorà, l'unico palazzetto del ghiaccio che era ancora a Milano fino a qualche anno fa, chiuso 3 anni fa, 4 anni fa, perché è fallita la società che lo gestiva, che noi abbiamo occupato in autunno per fare le utopiadi, cioè le olimpiadi dello sport popolare, come si suol dire, dal basso, autogestito, senza padroni o finanziatori, quel palaghiaccio è ancora chiuso, non ci sono bandi, non ci sono progetti per recuperarlo, mentre appunto si spendono soldi per fare nuovi palazzetti del ghiaccio. Nelle prossime settimane noi attraverseremo alcune date sicuramente, a partire dalle giornate per Dax del 15 e 16 marzo, in cui ci sarà anche proprio tutta una giornata del 16 dedicata allo sport popolare, quindi a un'altra idea di sport che non sia quella delle Olimpiadi. Attraverseremo sicuramente il 1° maggio, e quest'anno sarà un 1° maggio che ricalcherà un po' lo stile delle mie idee, ma soprattutto pensiamo nell'arco delle prossimi mesi, quindi da qui all'estate, non solo di provare a riproporre le Utopiadi, ma entrare nel merito proprio di quei luoghi che vorremmo dopo le Olimpiadi avessero altre destinazioni, altre funzioni, altre possibilità per i residenti. Mi riferisco appunto ai destini del villaggio olimpico e più in generale del quartiere di Corvetto, ma anche alla questione stadio, perché non dimentichiamoci, lo stadio si salverà per la cerimonia olimpica del 6 febbraio 2026, ma il suo destino è quello di essere non solo lo stadio, ma tutta l'area adiacente poi messa dentro la macchina acceleratrice della speculazione legata alla costruzione del nuovo stadio. Quindi questi sono un po' i luoghi in cui nei prossimi mesi ci concentreremo. Va bene, noi direi che purtroppo insomma queste 2 ore di trasmissione si sono riempite molto e ti ringraziamo molto per aver lasciato l'ultimo contributo, speriamo anche chi ci ascoltava da fuori, da tutta Italia, che abbia potuto apprezzare questa excursus che abbiamo preparato per voi. Porteremo sia queste dirette, la trasmissione intera sul sito di Radio Blackout con un podcast. E non so se volevi ancora ringraziare. Sì, no, grazie Luca, e direi grazie a voi, seguire... a presto. A presto. Ci vediamo sulle strade, sulle barricate. Sicuramente non sulle piste da sci. Assolutamente. E va bene, noi ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito anche mandando messaggini, ringraziamo le altre radio che fanno parte del progetto Ponte Radio, ringraziamo le persone che hanno attraversato questi microfoni e in particolare le trasmissioni di Radio Notav e Spot, e appunto lasciamo la sigla di questa trasmissione alle vostre orecchie e poi la bobina a Raga quest'oggi non andrà in onda. Ciao. Ciao. Ponte Radio.